Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Ai nostri cari ascoltatori, un saluto affettuoso da parte di Gesi e di Antonio. Ah, Antonio caro, siamo arrivati in febbraio ormai. Sì. Tempus fugit, te lo dico sempre. Domani sarebbe il compleanno di mia nonna, una donnina molto intelligente, molto. Comunque, vabbè, chissà che ci ascolti da qualche Benissimo. Parte. Nel frattempo noi diamo un cordiale saluto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto in questa nuova avventura sulle ali dei ricordi. Il nostro indirizzo è bluradioveneto.it e ricordiamo anche la possibilità di ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione. Nonché un cordiale saluto al nostro regista e al nostro coordinatore. Sì, saluto al nostro angelo custode. Allora, stasera abbiamo una persona che io stimo moltissimo, che è stata già con noi esattamente il 6 ottobre, ed è l'ingegner Luigi Crivellaro. Caro Luigi, buonasera. Luigi, buonasera. Buonasera Gesuina, benvenuto. Buonasera Antonio, buonasera a tutti. E bentornato, bentornato, che poi ci parlerai di tutto quello che stai facendo in questo momento. Però grazie. Prima ci facciamo ascoltare tutti i nostri ascoltatori una delle più belle canzoni, specialmente come testo, che è proprio una poesia. Ci ascoltiamo dalla voce di Milva, Inno all'amore, che è stata composta da Edith Piaf. Donare a te una vita che di gioia sia fiorita, la mia vita ti darò. Perdonarti ogni mattino la fiducia nel destino, il destino tuo sarò. Perché forte sia il tuo cuore nella prova del dolore, il mio cuore ti offrirò. Per lasciare a te sognare quanto un sogno può donare, senza sogni resterò. Eccoci di nuovo in studio e diamo subito la parola al nostro ospite, all'ingegner Luigi Crivellaro. A te la parola. Grazie. Sono qui stasera per presentare una casa editrice che si chiama Biblioteca dei Leoni. È nata nell'estate del 2013, quindi poco più di 6 mesi fa, ed è l'esito dell'incontro tra un mio antico desiderio e una proposta di Paolo Ruffilli, un grande poeta che penso molti di voi conoscono. Io gli sono grato per avermi dato la possibilità di realizzare il mio desiderio e insieme abbiamo iniziato questa attività editoriale, che quindi è giovanissima, ma in realtà prosegue l'attività editoriale precedente di Ruffilli, che è data da decenni. Abbiamo alle spalle insieme una lunga esperienza di tipo di gestione aziendale e di tipo editoriale. Ci proponiamo, ovviamente senza dimenticare la cruda realtà economica che abbiamo di fronte, ci proponiamo di fare il meglio che il mercato ci consente, ossia libri di qualità elevata, accompagnati anche naturalmente da libri più fruibili, di più facile lettura, ma pur sempre vogliamo mantenere un livello e un contenuto culturale, letterario, di costume, storico, elevato, e vogliamo anche dedicare una parte delle nostre pubblicazioni alle culture e alle tradizioni locali del nostro territorio. Abbiamo lanciato già alcune collane che sono di poesia, di narrativa, di saggistica, una collana di scritture e altre ne verranno. Abbiamo già in libreria in questo momento 12 opere già pubblicate, tra un mese ne avremo 20. A fine dell'anno 2014 avremo un catalogo di 35 o 40 titoli. Alcuni di questi sono di prestigio assoluto, vi faccio solo dei nomi. Mandelstam, che è un poeta giudicato dal nostro Vittorio Cozzoli, uno dei grandi poeti italiani, giudicato il maggiore lirico del Novecento russo. Canali, che è un grande personaggio della cultura italiana. Cavafis, un poeta celebre nella prima metà del Novecento, greco. Massari, un romanziere di grande livello. Ci proponiamo di presentare i nostri autori maggiori ai più grandi premi letterari e ci proponiamo anche come punto di riferimento a giovani autori, giovani o anche meno giovani, che pensino di avere qualche cosa di buono e di nuovo da dire. Abbiamo un sito www.lcaedizioni.com nel quale si possono trovare maggiori notizie e nel quale si può anche provvedere ad acquisti diretti. Il nostro primo gruppo di libri è uscito nel settembre scorso. Comprende il Mandelstam che ho detto prima, tradotto e introdotto da un saggio di Paolo Ruffilli. Comprende anche altri poeti e poetesse italiani, tra cui due autrici locali, Luisa Arena e Maria Marino. Inizieremo, propongo ai nostri lettori, di iniziare con un paio di poesie di Mandelstam e poi con breve prosa di Luisa Arena e con una poesia di Mariella Marino. Di Mandelstam ho scelto due poesie, tra le quali corrono 20 anni di distanza. La prima, scritta in giovane età, aveva solo 22 anni, era il 1913, in Russia c'era ancora lo zar, mancava poco tuttavia alla rivoluzione del 17, e di questa poesia mi ha colpito il sentimento di tragedia che è portato, diciamo trasportato nella poesia, dall'incombere della morte, che è il lupus in fabula. Ho scelto la seconda scusate, ritorno sulla prima poesia. Vorrei fare rilevare, e spero che si sentirà senz'altro nella lettura, la musicalità, che ovviamente è introdotta dalla traduzione di Paolo Ruffilli, ma sulla scia della musicalità del poeta russo, che è celebre per essere un musico della poesia. La seconda poesia l'ho scelta perché è il punto culminante della rotta di collisione di Mandelstam con le istituzioni sovietiche. Si parla del 1933. È stato il punto culminante che ha anche deciso della vita di Mandelstam, ha deciso la persecuzione del regime contro il poeta, l'isolamento, poi l'arresto, il confino, una vita da sopravvissuti lui e sua moglie fino alla morte nel viaggio verso un campo di detenzione siberiano nel 1938. La parola ad Antonio per la lettura. Lupus in fabula. Ci ha resi pazzi la vita forsennata. Vino all'alba e poi al tramonto noia. Come potrò annullarti, o vana gioia, e il tuo colore, o peste inargentata? Si danno baci di notte per le strade, le mani strette nel tormentoso rito. I fiumi sembrano nastri di granito, scintillano i lampioni come spade. La morte arriva come il lupo nelle fiabe, ma a scendere per primo nella fossa è chi ha di più la bocca accesa e rossa, e sui begli occhi la frangia giù gli cade. Stalin. Viviamo senza avvertire più sotto di noi il paese. Quel che diciamo non si coglie neppure a 10 passi. Si sente solo il montanaro del Cremlino, lo sbaraglia mugicchi, l'assassino. Le sue grasse dita sono gonfie come vermi e le sue parole calano giù come fili a piombo. Ridono i suoi baffi neri da scarafaggio e mandano scintille di bagliori i suoi gambali. Gli si muove dietro una masnada di capetti esili di collo e lui si compiace dei servigi dei mezzi uomini che ha intorno. Chi piagnucola, chi miagola, chi dice sì fischiando, se appena lui fa mostra di parlare o punta il dito, come ferri di cavallo forgia un decreto dietro l'altro, a chi glielo ficca in ventre, a chi in fronte o dentro un occhio. Non c'è esecuzione che non lo renda pieno di sé e beato, in quel suo largo petto dal sangue osseta, ben irrorato. Questo è Mandelstam. Mandelstam. Ecco, molto, molto belle, molto, molto difficili anche. Un poeta, come abbiamo detto, che ha avuto una vita travagliatissima. E una fine tragica. E una fine tragica. Ancora in età ancora relativamente giovane. La prossima lettura la presento molto rapidamente. È tratta da un saggio di Luisa Arena, un'autrice di Montebellune. Il saggio si chiama Così filano le parche e secondo me è molto indicativa questa lettura del senso ultimo di quest'opera, che è molto originale, molto meditata, molto sofferta. Il senso ultimo è che la morte non cambia tanto chi si lascia e che se ne va dove non sappiamo, ma cambia chi rimane. Chi rimane è preda della nostalgia, del rimpianto di ciò che non è stato, fino a che non riuscirà a tessere degli altri fili, al di là del filo tagliato dalle parche, che lo ricolleghino di nuovo al suo mondo e alla sua vita. Prego, prego Gesuina. Sì. Così filano le parche. Quanto mi manchi? Ti cerco ovunque. Nelle lunghe passeggiate al parco, nel silenzio della notte, ai miei risvegli che ora sanno di amaro, di assenza, di abbandono, Ti cerco nei tramonti, tra la gente, nel mormorio del faggio che riparava le nostre ansie. Se guardo fuori e dentro di me, nei meandri della mia anima, dove si è aperta una lunga voragine, se guardo in basso nella terra o in alto tra le nuvole. Se sei da qualche parte e il tuo pensiero, la tua capacità di sentire non sono venuti meno, dove va il pensiero quando siamo morti? Ti renderai conto che io sono molto sola senza di te. Ma quando perdiamo qualcuno, siamo concentrati sul nostro dolore. Sentiamo solo la nostra mancanza. Ora sto pensando che anche tu sei senza di me. Ti manco. Cosa fai? Mi pensi? Cosa pensi? Cosa pensavi, Andrea, nei tuoi interminabili silenzi mentre ti osservavo? In questi momenti avrei dato la vita per stare nella tua testa. Ah, non possiamo stare nella mente delle persone che ci amiamo. Sono loro che stanno nella nostra. Così è l'amore e così la morte. Sono rimasta priva di qualcosa, come chi resta senza un arto e improvvisamente si accorge che non poteva farne a meno. Con quell'arto toccava le cose più preziose e ora, insieme al braccio, sembra gli manchi anche il resto. Da bambina mi hanno insegnato che Dio ha creato il mondo e lo governa nel suo ordine, che è Lui che predispone tutte le cose, che, insomma, è tutto nelle sue mani. Ora quelle parole mi sembrano così vuote, vuote come il mio animo. Vorrei tornare indietro a quando la sera mia madre, spegnendo la luce, mi rimboccava le coperte e io, osservando i suoi occhi arrossati, le chiedevo: «Perché piangi, mamma?» «Prega, vedrai che il Signore ti ascolta», mi rispondeva. E io lo facevo istintivamente, e la preghiera aveva un altro sapore, altre richieste, altre speranze. «Prega Dio!» «Chi è Dio?» «Allora prega Gesù!» Adesso leggo la poesia di Maria Marino. Sì, adesso la presentiamo, sì, anche questa poesia rapidamente. Maria Marino è una poetessa che vive qui vicino a noi, a Treviso, vicino a Treviso, e usa le sue liriche per dare vita nel proprio intimo a quel dialogo con le persone, con la natura, con le cose che ama, e con le quali il dialogo reale e diretto la pone a volte fuori equilibrio, la riempie di dubbi e di problematiche che lei affronta e supera con l'aiuto della poesia. Tramite la poesia, dice, l'aria ti ritorna e la vita ti spinge a riva. Bene, da Contropelo, poesie per un anno. Onde, è terra fertile per i poeti il sentimento che strazia, l'onda che travolge, il fiato che ti manca usurpato così da acqua e sabbia che schianta il respiro dentro. Ma di tanto in tanto l'onda non travolge, il sentimento calma, l'aria ti ritorna e la vita ti spinge a riva. Allora, adesso ci fermiamo un momento e ci ascoltiamo la seconda canzone in programma, che è cantata da Fausto Leali e si intitola Mi manchi. Mi manchi quando il sole dà la mano all'orizzonte, quando il buio spegne il chiasso della gente, la stanchezza addosso che non va più via, come l'ombra di qualcosa ancora mio. Mi manchi nei tuoi sguardi e in quel sorriso un po' incosciente, nelle scuse di quei tuoi probabilmente, sei quel nodo in gola che non scende giù. E tu mi manchi, posso far finta di star bene, ma mi manchi. Ora capisco che vuol dire averti accanto prima di dormire, mentre cammino a piedi nudi dentro l'anima. Mi manchi e potrei cercarmi un'altra donna, ma mi ingannerei. Segno rimorso senza fine, il freddo delle mie mattine, quando mi guardo intorno e sento che mi manchi. Ora che io possa darti un po' di più, ed eccoci di nuovo in studio con il nostro amico Luigi. Parliamo adesso di altri libri che fanno parte di un gruppo che abbiamo stampato e messo in libreria all'inizio di dicembre. Come punta di diamante di questo gruppo considero il romanzo di Franco Massari che si intitola Ganimede e la notte dei cristalli, di cui sentiremo un brano tra breve. E magari faremo una breve presentazione prima di leggerlo. Accanto a questo, il gruppo comprende un altro romanzo importante di un musicista trevigiano, già noto in campo internazionale, è un pianista, è un compositore, si chiama Alessandro Pierfederici, con una storia dal sapore antico ma in realtà modernissima, e ancora un altro libro in prosa di memorie straordinarie di un autore che si chiama Beppi Orlandi. Immaginate, pensate che è del 23, dunque ha 90 anni 91. Suonati, sì. Ma è un libro brillante ma anche drammatico, perché parla di vicende prima serene e poi tragiche dell'anteguerra e della ultima guerra, in particolare del periodo di occupazione tedesca nei nostri territori. E poi libri di poesia di poeti e poetesse già ampiamente affermati, di cui offriremo un paio di letture. Iniziamo quindi con Beppi Orlandi, dal cui libro di memorie che si chiama Tra il Piave e Soligo, ho tratto un brano che vuole rivelare soprattutto alle generazioni più giovani che non conoscono questi fatti o che ne hanno sentito parlare in modo abbastanza vago, vuole rivelare la drammaticità e la disperazione introdotte nella vita dei nostri paesi dalla violenza della guerra civile sotto l'occupazione tedesca dopo l'8 settembre del 43. Orlandi ne fu testimone e protagonista diretto, e lo si sente. E appunto, sentiamo la lettura. Fuori non cessava l'inferno. Le scariche delle mitragliatrici partivano da più parti del paese. Eravamo fermi, sia io che Corrado, avevamo pensato che qualche cosa più avanti non funzionasse. In un momento di pausa il militare ci fece cenno di proseguire verso la piazza centrale. Eravamo intontiti, incapaci di pensare a noi stessi. Il secondo militare ci consegnò al terzo e così via finché arrivammo all'ultimo. Quello rimase fermo, aspettando l'arrivo dell'altro che ci avrebbe ricevuto al nostro apparire sulla piazza. Dopo una breve pausa d'attesa ci fece segno di andare avanti. La distanza era breve, avanzavamo sempre con le mani alzate che ormai davano fastidio. Solo il ragazzino qualche volta aveva accennato a qualche piccolo salto, come a volte fanno giocando. Entrai per primo nel raggio della piazza e rallentai davanti al caffè Leon d'Oro. Man mano che ci portavamo vicini al centro, il frastuono delle scariche aumentava. Avvertii subito che il paese era stato circondato e nei punti importanti avevano piazzato dei tiratori scelti con armi di precisione. Impauriti, specie il ragazzo, da tanto frastuono ci eravamo fermati. Un militare che gli stava avvicinando ci diede l'ordine di proseguire, anche se non era stato predisposto il militare che ci doveva ricevere. La piazza era deserta, o almeno così mi parve, mentre sotto l'effetto della paura ci stavamo muovendo adagio, guardandoci attorno. Io ero più avanti dei due. Superai l'ingresso dell'albergo Leon d'Oro e feci qualche passo ancora. Ripresi i sensi. Un militare tedesco aveva appoggiato la mia testa ad un suo ginocchio e mi stava esaminando, spostando i capelli. Rinvenni subito, mentre il soldato, che aveva terminato di guardarmi, si mise ad urlare. «Stop! Stop!» Mi aiutò a ritornare in piedi e mi fece capire con un gesto, fra i miei capelli, che la pallottola mi aveva toccato solo la pelle. Un tiratore di precisione era stato piazzato sull'angolo di un giardino dalla parte opposta da dove eravamo noi. Da quel punto dominava la piazza e due strade di accesso. Noi eravamo i primi prigionieri ad essere portati nella piazza e capii più tardi che quello ci aveva scambiato per partigiani. Stavamo proseguendo molto adagio, immersi in quel susseguirsi di colpi. Poco più avanti di noi, sulla nostra destra, c'era il monumento ai caduti della Grande Guerra. Una persona si era nascosta. Era uno sfollato che stava arrivando con due bambine nella piazza. Le piccole stavano proseguendo da sole, più avanti, verso la pasticceria. Il padre, preso anche lui dall'improvvisa guerriglia, dopo essersi nascosto, non rendendosi ancora conto di cosa stesse capitando, aveva tentato di ritornare dall'altra parte per prendere le sue piccole. Il tiratore, del quale si è fatto cenno, vedendo un borghese che correva, sparò, sempre alla testa, e purtroppo lo uccise. Era solo l'inizio di una giornata terribile, il primo dei tanti morti di quel giorno. Bello. Ecco, avete sentito l'atmosfera che si viveva in quelle ultime settimane di guerra, in questi paesi dove viviamo noi ancora adesso e dove ancora c'è chi ricorda perché è stato protagonista. Torniamo alla poesia con una lirica di Maria Antonia Borso. Maria Antonia Maso Borso. La chiave di lettura di questa autrice è stata ben individuata da Paolo Ruffilli nel cosiddetto pentagramma quotidiano e si rivela chiaramente in questa breve poesia, che parla dei figli, gli esseri che più di tutti occupano il nostro cuore, ma che forse ancora più ci sfuggono. E ciononostante dobbiamo tenerci in disparte, ma dobbiamo anche essere consapevoli della possibile, inevitabile crudeltà dei loro sogni nei nostri confronti. Bene, di Maria Antonia Maso Borso, da Solfeggio, figli. I figli cavalcano il vento, lanciano sogni irraggiungibili e non si sa dove siano, né cosa pensino davvero, e se siano felici o a malapena sereni o turbati ed afflitti. Li portiamo nel cuore, come aquiloni colorati di cui rendere grazie, e non importa se si resta in disparte. Talora ci uccidono nei loro sogni. Con la prossima lettura torniamo alla prosa. Si tratta di un brano tratto dal romanzo che ho citato prima di Franco Massari, Ganimede e la notte dei cristalli. Massari è un autore veneziano che però vive in Germania, a Monaco di Baviera, e diciamo ha mescolato un po' questa sua adozione tedesca, preparando e completando una storia che svela retroscena inediti di fatti storici, fatti dei quali è stato celebrato, ricordato nel novembre scorso il 75esimo anniversario anche dalla cancelliera tedesca che li ha ricordati come uno dei momenti più bui della storia tedesca. Questo libro è anche un giallo politico, la storia di un intrigo ordito dai servizi segreti tedeschi dietro ordini del ministro della propaganda nazista, il celebre e famigerato Goebbels. Il brano che adesso Antonio ci legge riporta un colloquio tra Goebbels, ministro della propaganda, come abbiamo detto, e il suo segretario, il quale gli sta riportando notizie fresche della notte, nel corso del quale viene coniata la definizione che dà il titolo a questo libro. Huber continuò, lieto che il ministro si dimostrasse curioso. Un gran numero di negozi ebrei è stato assalito dalla moltitudine. Apposite targhe con la scritta «Negozio ebreo» sono state applicate ad ogni porta e sulla vetrina principale, come convenuto. Sangue ebraico? La cifra degli eventuali decessi non è stata ancora accertata con esattezza, ma Koch non mancherà di informarci. Rilievi particolari di Koch sulle operazioni? Ancora prematura un'analisi definitiva, ma Koch dice che in moltissimi negozi ebrei sono ormai devastati dall'ira popolare e le merci in parte distrutte o asportate. Non si contano i vetri delle vetrine in frantumi. Ah, ecco, ottimo spunto. Divino, oserei dire, o in ogni caso appropriato, dannatamente appropriato. Herr Minister? Ecco l'ispirazione. All'improvvisa esclamazione quasi stridula, Huber dovette forzatamente arrestarsi nella sua esposizione. Si notava comunque che avrebbe voluto aggiungere qualcosa, ma il ministro non gli badava più. Si era messo a fissare con uno sguardo da falco gli stucchi del soffitto. Huber tacque di botto. Goebbels sembrava rapito da un'idea arcana, come un'ispirazione che gli era balenata quando il segretario gli aveva parlato dei negozi devastati. «Questo è il punto, mio carissimo Huber», riprese Goebbels. «Non voglio sentire più nulla per il momento. Mi dica solo una cosa in sé piccola e che normalmente non si dovrebbe prendere in considerazione. Mi risponda a dovere, Huber. I vetri infranti, quelli saranno nella notte rimasti illuminati dai lampioni e ancor più dalle fiamme dell'incendio. Non è così?» «Sicuramente, Herr Minister». E i vetri infranti, mi si dice, sono ormai a centinaia, a migliaia, e questo in tutto il Reich. Non è così? Ma indubbiamente, Herr Minister, senz'altro la situazione al momento è quella da lei ora descritta. Ed ecco, Huber, quello che contraddistingue un genio dalla propaganda, da un poliziotto quadrato come Himmler. Un'ispirazione come questa. E ossia, Herr Minister... Il segretario non osò esprimere ulteriore commento per non far rilevare il fatto che non avrebbe saputo esattamente cosa dire. E Goebbels continuò enfatico. Una frase, ciò che gli americani nella loro materialistica cultura commerciale definiscono slogan, azzeccata e capace di imprimersi nella memoria della gente e nell'apprezzamento dei posteri. Una frase di tipo marmoreo, oserei dire, che sintetizzi non certo un dentifricio da vendersi a basso prezzo come in America, ma un momento storico e tragico della nostra storia, reso appunto con questa frase, con questo simbolismo di una spontaneità e di un verismo perfino poetici. Già, proprio così. un soffio di poesia tragica, di poesia che esalti la bellezza della distruzione nazista dei propri nemici. Capisce, Huber? Ebbene, Herr Minister, proferì calmo ma sorridente il segretario per non palesare la propria confusione interna. Francamente ancora no, ma sono convinto che lei si riferisca in questo momento a qualcosa di magnificamente adatto agli avvenimenti in corso e da lei provocati. Goebbels lo guardò imperioso ma guardingo, poi proruppe. Lei parlava poc'anzi di vetri rotti, infranti, di vetrine ebraiche e tutti sparsi per l'acciottolato delle strade ammucchiati sui marciapiedi. Non è così? Proprio così, Herr Minister. E rimarrebbero comuni, comunissimi, perfino scomodi vetri rotti nel caso li lasciassimo così. Non è vero? Huber assentì con un reverente e opportuno cenno del capo. No! Goebbels si illuminò. No! Perché ai posteri verrà tramandata una visione di bellezza distruttiva che ingentilirà, poetizzerà, pur rendendola più tragica, l'immagine del nostro Reich nella storia. Si renderà conto, mio caro Huber, che l'espressione da lei usata, vetro, sì, vetro, non dice nulla. Nulla se non vetro. Al massimo raffigura solo e unicamente un'immagine di vetro ammucchiato per terra con altre immondizie, immagine noiosamente profana e priva di vivezza storica. No! La visione che adesso mi ispira mostra la giusta immagine da incastonare nella memoria dei posteri. Noi trasformiamo il vetro in cristallo. Molteplici cristalli che luccicano come fanali, drammatici diamanti nella notte striata dall'illuminazione degli incendi. La notte della collera popolare. Ma pensi, Huber, migliaia di piccoli e grandi brillanti nelle forme diverse e bizzarre che splendono di luce viva, rossastra come le fiamme che volteggiano superbe, le fiamme delle ignobili sinagoghe che ardono. Huber, non i diamanti indegni dei luridi e furbastri giudei, ma i diamanti della notte del giudizio nazista. Eh? Che ne pensa? Ah, Herr Minister, come trova la mia ispirazione per la notte dell'ira? Meravigliosa. Non ho parole, Herr Minister. Il segretario non poteva apprezzare ancora del tutto la portata di quel panegirico, ma ne intuiva l'importanza che il suo superiore gli dava. Si preparò ad esprimere un commento più appropriato e più incisivo, cosa che il ministro avrebbe accolto con piacere. D'altronde Goebbels non sembrava affatto soddisfatto della laconicità del suo ascoltatore. «E come trova la trasformazione del vetro in cristallo?» «La trovo geniale», risponde Huber con tono di voce reso più significativo, scandendo in maniera appropriata le parole per far risaltare meglio quell'aggettivo di adulazione. Lo comunichi al partito e alla stampa. Questa notte verrà definita ufficialmente nella storia europea come la notte dei cristalli. Una bellissima Reichskristallnacht. Bravo, mamma mia. Tedesco proprio, hai proprio anche la voce da tedesco. Bene, andiamo alla terza canzone, che è una canzone allegra, un po' così. Allora, Marisa Sannia ci canta Un aquilone. Stanza il mondo, volava un aquilone che la sentivo donna come non sono stata più. Tu mi cercavi, io ti cercavo come se quello fosse il primo giorno o forse l'ultimo, non so. Sogni colorati dentro me, la notte diventava giorno e quella stanza il mondo. Volava un aquilone che lassù si trasformava in falco dalle lunghe ali blu. Sogni colorati dentro me, la notte diventava giorno e quella stanza il mondo. Eccoci qua, ancora di nuovo col nostro amico Luigi Ingegner Crivellaro. Allora Luigi. Allora, abbiamo lasciato Massari con la sua Notte dei Cristalli, che ha dato l'atmosfera della lugubre capacità nazista di celebrare la morte. E adesso passiamo a una poetessa, Patrizia Riscica, medico nella vita ma autrice di poesie da sempre. Abbiamo pubblicato di Patrizia Riscica un volume che si chiama Dialoghi imperfetti. È fatto di varie sezioni con vari tipi di dialoghi, dialoghi dell'amore, dialoghi delle donne, dialoghi della mamma e così via. E prendiamo una poesia da Dialoghi delle donne. Donne che sono spesso fragili, incerte nella loro stessa essenza, incerte della strada da prendere, se isolate. Ma in questa poesia si afferma la consapevolezza che le donne sono scrigni preziosi, ammazzano i combattenti e, se strette in un cerchio di sorellanza, forti e votate alla salvezza. Bene. Da Dialoghi imperfetti, dialogo della sorellanza. Una consapevole sapienza femminile si allarga nel mondo, ancora indifferente al coro che attraversa l'aria. Il nostro corpo è uno scrigno colmo di tesori, da donare o depredare. Il nostro odore profuma l'aria, un'attrazione irresistibile, una traccia sicura da inseguire. I nostri umori scorrono gratuiti, sono cibo, piacere, vita. La nostra anima è una pellicola leggera e tenace che avvolge e protegge la terra. La natura nutre il nostro esistere. Siamo rifugio, protezione, forza. Siamo cavità che genera e consola. Siamo amazzoni combattenti per la vita. Non c'è nulla che non possiamo riparare. Fosse anche l'ultima guerra degli uomini. L'arte delle donne è la cura. Il loro orgoglio è saperla offrire, il loro onore è saperla accettare. Conosciamo il nostro mestiere, ricuciamo e ricamiamo la vita, celebriamo la malattia e la morte, laviamo e vestiamo i loro corpi, piangiamo con disperata rassegnazione ogni abbandono, ogni rinuncia. Le lacrime nelle donne scorrono ovunque, silenziose, trascinano via rabbia e prepotenza. Donne forti, risolute, scaltre, che si guardano alle spalle, sempre attente a violenza e tradimenti. Magicamente strette nel cerchio della sorellanza, solo così saranno salve. Ecco, abbiamo completato questa lettura poetica e passiamo a quella che è l'ultima lettura della serata, un brano del romanzo di Alessandro Pierfederici. Vi ho già accennato prima che si tratta di un autore trevisano, un musicista, e il titolo del romanzo è Ascesa al regno degli immortali. È la storia di un musicista che per tutta la vita insegue e cerca di realizzare un ideale illusorio, quello di toccare e donare al mondo le vette più alte della sua arte, escludendo le contaminazioni che provengono dalla vita reale, ossia isolandosi totalmente nella sua arte, ma sempre va a cozzare contro la necessità irresistibile di amare e con le delusioni, con gli errori, le meschinità che l'accompagnano. Giunto alla maturità, finalmente incontra una donna giovanissima nella quale ritiene di riconoscere quell'essere superiore che gli consentirà di realizzare il sogno della vita e di ascendere così a quel regno degli immortali a cui agogna. Queste pagine raccontano l'incontro nel corso del quale egli rivela alla donna il suo amore. La ragazza, senza rispondere, abbassò i grandi occhi verdi, andò al pianoforte e disse piano: «Ho portato i Papillons di Schumann. Sono molto semplici per te questi brani, ma sono anche molto intensi. Sveleremo assieme il loro segreto». Laura suonò l'intera serie dei brani e Anton ascoltò quasi in estasi, mentre la visione della storia immaginata dal compositore prendeva forma davanti a lui. Quando la ragazza ebbe finito, egli si accostò al pianoforte e, vicinissimo alla sua allieva, tanto da sentirne il caldo respiro, le prese una mano e, accennandolo spartito, con una crescente commozione che gli serrava la gola e lo costringeva talora a ripetere le parole, disse: «Sai che Schumann si è ispirato a una scena di un romanzo? Sì, di un ballo mascherato nella notte di Carnevale. E durante quel ballo due fratelli, due, si contendono la stessa ragazza». Vi fu un attimo di silenzio e la commozione si impadronì di entrambi. Laura non sapeva perché il suo cuore palpitasse così forte, mentre Anton riuscì a dominarsi. Al ballo gli invitati sono mascherati da farfalle. Ognuno dei due pretendenti crede di essere il prescelto. Si scambiano la maschera. Il primo è un animo generoso e riservato, saggio e dolce, come il tema del primo brano. È Florestano, uno dei due volti della personalità di Schumann. L'altro fratello, l'altro aspetto dell'animo romantico del compositore, Eusebio, è invece appassionato e focoso, come il secondo brano. Un soffio di musica che nasce e svanisce in un istante. Ecco i due fratelli in disputa fra loro nel terzo brano, severo e grottesco, marziale e burlesco. E poi vi sono le danze, i giri di valzer, ora con l'uno, ora con l'altro, e la festa. Ma in mezzo a questo chiasso gioioso, ecco la più pura, intima confessione della ragazza, uno sguardo struggente e malinconico a quel mondo gioioso, quasi con la consapevolezza che tutto finirà. Anton continuava a guardare Laura mentre era trasportato dalle sue stesse parole in quel mondo fantastico che gli faceva dimenticare la realtà. Visioni di fiabe, montagne, cieli azzurri, acque limpide scorrevano davanti a loro. Il settimo brano è la dichiarazione di un innamorato. Pare quasi di scorgere, nelle prime interrogative battute, il giovane che ferma la ragazza per parlarle. Ella si arresta sull'ultimo, sospensivo accordo, ed ecco, come il sole che sorge, l'intensa ed entusiasta melodia della confessione, ravvivata dalla speranza ardente e trepidante di quell'ansiosa ma discreta voce suonata dalla mano destra, nascosta tra gli arpeggi della sinistra. I sentimenti più diversi si fondono in un'armonia incantevole. Ma non c'è tempo per una risposta. Un sorriso compiaciuto o forse una risata divertita, deciderai tu cosa succede fra questi due brani, ed ella si lancia nel trascinante valzer che segue. Gioia sfrenata, vivacità, giovinezza. Anton si accorse di aver pronunciato con un tono turbato l'ultima parola. La musica, che si faceva sempre più intensa e briosa, avviando la festa al suo culmine, lo travolgeva ed inquietava. Si sentiva anch'egli tra i protagonisti di quella vicenda e comprendeva che ormai la recita volgeva al termine. Non fa in tempo a finire la danza, riprese sempre più rapidamente per vincere la sua trepidazione, che subito l'altro fratello rivela a sua volta il proprio amore e, come il primo brano era inizialmente timido, lirico, disteso, così questo è passionale, vibrante, ansioso e drammatico. La preoccupazione e l'ansia trovano la via dell'esuberanza, come nell'altro erano state celate dalla timidezza. Sono due volti umani, due modi di esprimere il medesimo sentimento. Ed ora un altro valzer. La ragazza accetta di nuovo un ballo con i due fratelli, ma mentre il primo si presenta con lo stesso tema del sesto brano e tutto pare immutato, il secondo è accompagnato da una melodia languida, un canto ispirato ed intenso. Qualcosa è cambiato. Un sentimento fortissimo sboccia e fiorisce in lei e corrisponde a quell'amore ardente. La ragazza continua a ballare, infervorandosi nella danza e nella passione, ormai innamorata anche lei. Anton prese il viso di Laura tra le mani, accarezzandolo con suprema dolcezza, ed ella non ebbe la forza di scostarsi e si limitò ad abbassare gli occhi gonfi di lacrime. Finisce il ballo. E due giovani non si scostano. Uno sguardo intenso, una domanda ansiosa, una breve risposta sottovoce, e tutta la vita cambia. L'entusiasmo si scatena irrefrenabile nella polacca, con cui i due nuovi fidanzati, uniti nella gioia, si perdono in un turbine fantastico di suoni festosi, mentre il pretendente deluso se ne va, ricolmo di amarezza. Dopo pochi istanti di silenzio, asciugando il volto di Laura, Anton sussurrò: «Forse io sono quel florestano, o forse l'altro, Eusebio. No, non so neppure io chi sono. Non importa. Ciò che entrambi provano per lei è lo stesso sentimento che io provo per te. Posso rivelartelo in un modo o nell'altro, ma nulla cambia. Il mio amore rimane lo stesso, infinito, incontenibile, quale non ho mai provato nella mia vita, eterno, oltre ogni tempo e ogni memoria. Ora la risposta è nel tuo cuore». Laura comprese tutto e trattenne il respiro per l'emozione che le pesava sempre di più sul petto. In quell'interminabile silenzio, Anton, con la voce quasi rotta, riprese: «Ciò che conta davvero è quanto ti amo. Ora la risposta è nel tuo cuore». Laura scoppiò in pianto e, tra i singhiozzi, trovò la forza di dire: «Non posso rispondere». Bene. Allora, ci fermiamo quindi. Ci fermiamo per l'ultima canzone. Per l'ultima canzone. Ecco, questa è una canzone molto bella, lanciata da Mina a suo tempo. Però oggi noi la facciamo ascoltare nella bellissima interpretazione di Irene Grandi. vuoi, come tu mi vuoi. Eccoci di nuovo in studio per l'ultima tranche e diamo la parola al nostro ingegner Luigi. Bene, prima di salutare vorrei intanto ringraziare la nostra cara Gesuina, caro Antonio, e vorrei dire proprio rapidissimamente quello che è il programma che abbiamo in mente Paolo Ruffilli ed io per questa nostra nuova iniziativa. Abbiamo un terzo gruppo di libri, sono 8 libri contemporaneamente, che è in fase ormai di stampa e che sarà in libreria tra un mese. In questi libri, rapidissimamente vi dico 2 o 3 titoli. Uno è una raccolta di poesie di Cavafis, Costantino Cavafis, un poeta celebre, e credo che sarà un libro che avrà susciterà molto interesse. A me piacciono molto le poesie di Cavafis. Tu le conosci già? Sì, sì. Tu le conosci già, sono veramente per un appassionato di poesia, sì. Sono veramente tra le migliori letture che si possono, che si possono trovare. Un altro libro importante, dimenticavo di dire che le traduzioni saranno di Tino Sangiglio, un grande intellettuale che è mancato pochi anni fa, triestino, e di Paolo Ruffilli. E ci sarà una introduzione sempre di Paolo Ruffilli. Ci sarà poi una raccolta di poesie di Luca Canali, poesie quasi totalmente inedite, quindi una cosa interessantissima, secondo me faranno colpo, e le ho lette naturalmente. Canali sappiamo che è un autore tra i più grandi qui in Italia, tra i più noti, è stato anche sceneggiatore cinematografico, collaboratore di Fellini, eccetera, eccetera. Stiamo anche per lanciare delle guide, una collana di guide del nostro territorio, con informazioni culturali, informazioni storiche e così via. Come detto in apertura, riteniamo di raggiungere 35-40 titoli a fine anno, e con questo vi saluto, vi ringrazio e mi auguro che avremo tra voi tanti lettori. E noi ringraziamo te, noi Luigi, ringraziamo mi consentite una notazione. Bisogna dare proprio, come dire, fare un encomio a questa coraggiosa iniziativa, tenendo anche conto del fatto che sta per entrare, come dire, in vigore, è già in vigore, è già conosciuta, eccetera, la biblioterapia. Quindi questi sono degli strumenti che saranno decisamente di grande, come posso dire, di grande spessore, di grande capacità terapeutica per i mali del nostro tempo. Bene. Speriamo che i mali sono molti, quindi si vorranno molti libri. Speriamo che la gente impari a leggere. Comunque Luigi, noi ti ringraziamo, grazie, salutiamo mille, grazie anche per Paola, essere intervenuto. Grazie a voi, grazie a voi. Vi diamo appuntamento alla prossima. Addio piacendo. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. E come sempre vi dico, ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.